1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E va bene, Strada in diretta la recupereremo alle 7.45, ce ne faremo una ragione. E allora, cari ascoltatori, siamo qui a leggere i giornali. Vi ricordo che la 153esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già ben cominciata. E voi che fate? Che fate? Siete lì ancora ad attardarvi perché non lo so, la Juventus ha vinto il campionato? Sai che novità? Dai, forza, forza, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, siamo a lunedì 4 aprile e intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì è dedicata alle tasse, tasse sulle imprese. In Europa riparte la gara delle aliquote, questo è il titolo di prima pagina. Cameron punta al 17% per la corporate tax. L'anno prossimo IRES al 24%, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il Corriere della Sera, e tra poco lo vedremo, i conti segreti dei 12 leader, i soldi a Panama del clan Putin e dei vertici cinesi, soldi scoperti a Panama, ci sono anche dei nomi italiani. Anche a Repubblica, Panama, ecco i conti segreti da Putin ai big del pianeta. Mentre la vicenda delle dimissioni del ministro Guidi e le polemiche successive, la stampa al piano di Total sul petrolio lucano. Per il giornale la grande balla dei poteri forti, il caso petrolio, anche il giorno petrolio, Renzi sfida i PM. Il messaggero Renzi, l'emendamento è mio. Il Fatto Quotidiano, le mail inguaiano la Boschi, le prove che la norma Tempa Rossa fu dettata da Total, Shell ed Eni. La sfida di Renzi è invece il titolo dell'Unità in prima pagina, mentre Libero ha un'intervista a Michele Emiliano in ampio risalto, governo servo delle lobby, questo è il titolo di prima pagina. Ma partiamo da Panama, paese lontano nel Centro America e nel quale però e dal quale provengono notizie che possono davvero travolgere, comunque riguardare i paesi di tutto il mondo. Sono già soprannominati i Panama Papers. Che cosa è successo? È il più grande scandalo finanziario della storia legato all'evasione fiscale, secondo Stefano Montefiore del Corriere della Sera, e vede coinvolti assieme ministri, re, presidenti, miliardari, calciatori. Sono i Panama Papers, cioè 11 milioni e mezzo di documenti venuti in possesso di un consorzio internazionale di giornalisti investigativi di cui fanno parte il Guardian, Le Monde, la Süddeutsche Zeitung, per l'Italia l'Espresso. E in questi documenti c'è o ci sarebbe moltissimo denaro nascosto offshore, denaro in qualche caso pulito, in qualche caso invece sporco, in alcuni casi addirittura macchiato di sangue. Lo studio legale Mossack Fonseca del 1977, una delle migliori società al mondo a cui rivolgersi per sottrarre soldi al fisco. Ebbene, da ieri sera sappiamo chi sono i loro clienti eccellenti. E tra questi 12 capi di Stato e di Governo, 6 dei quali ancora in attività, 128 responsabili politici e funzionari di primo piano, 29 miliardari, 33 persone e società finite nella lista nera del governo americano perché in affari coi cartelli messicani della droga, organizzazioni terroristiche come Hezbollah, stati canaglia come la Corea del Nord. Allora, alcuni nomi. Il presidente russo Vladimir Putin, che non figura lui come persona, ma sembra avere 2 miliardi di dollari. 2 miliardi di dollari. Però. Poi c'è il padre dell'attuale premier britannico, David Cameron. La famiglia del leader cinese Xi Jinping, a sua volta promotore di dure campagne anticorruzione. I capi di Stato, tra cui il re Salman dell'Arabia Saudita, il presidente ucraino Poroshenko, che è acerrimo nemico di Putin, il premier islandese Gunnlaugsson, il presidente argentino Macri, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Khalifa bin Zayed, Lionel Messi, anche Lionel Messi, il presidente sospeso dell'UEFA Michel Platini. Tra gli italiani citati ci sono Luca Cordero di Montezemolo, l'imprenditore latitante Giuseppe Donaldo Nicosia, il pilota automobilistico Jarno Trulli. Questo si legge nell'articolo di Stefano Montefiori, ma insomma i nomi sono un po' ovunque. Repubblica titola ovviamente sugli italiani anche Montezemolo e altri 800 italiani con conti offshore. C'è da dire che da parte dell'entourage di Montezemolo c'è stata una smentita di questo tipo. Non conosciamo questo studio legale, dicono negli ambienti vicino a Montezemolo, come riporta Giuseppe Guastella, pagina 9 del Corriere della Sera. Ma i nomi e gli italiani nel dossier sono appunto lui, l'ex pilota Jarno Trulli, come detto, e poi questo imprenditore Donaldo Nicosia, socio di Dell'Utri, già indagato a Milano e latitante per una presunta truffa milionaria. Questi sono i nomi. Certo, anche Putin colpisce moltissimo questa cifra, 2 miliardi di dollari. Colpisce anche il fatto che Putin non è citato, non ha un conto personale. È una rete, come è definita nell'articolo di Fabrizio Dragosei a pagina 7 del Corriere, la rete di Putin. Perché il nome del presidente non compare mai nei file, ma c'è per esempio l'amico violoncellista con 100 milioni di dollari sul conto. Amico molto sentito di Putin. E ripeto, operazioni da 2 miliardi che vengono riferite e riportano al Cremlino. Ora, come scrive Dragosei, sono almeno 10 anni che giornali, governi, servizi segreti cercano le prove della presunta corruzione di Putin. Si è sempre parlato di amicizie, connessioni, possibili prestanome, ma mai prove. Anche stavolta, nelle migliaia di pagine che arrivano da Padova, il nome del presidente russo non compare nemmeno una volta. Però appunto questo sconosciuto musicista di San Pietroburgo, Sergei Roldugin, che ai giornalisti si limita a rispondere sui 100 milioni di dollari, sapete ragazzi, ora non sono pronto a commentare questa cosa. Si tratta di questioni delicate, ma trovato con 100 milioni di dollari, insomma, diciamo così, lasciamo in sospeso la questione, ma nei prossimi giorni secondo me si sapranno altri particolari. Oh, si continua con la questione di Bertone, l'appartamento di Bertone, ancora oggi sulla stampa, pagina 12, quella che potrebbe definire lo stesso Cardinal Bertone la sua croce quotidiana, eccola qua. L'appartamento di Bertone, 800.000 euro di spesa nel giallo dei due pagamenti. La ricostruzione da parte di Andrea Tornielli, che è vaticanista della stampa, e racconta i 422.000 euro saldati dalla Fondazione Bambin Gesù e i 307.000 versati dal cardinale dopo lo scandalo, tutto per la ristrutturazione dell'appartamento con attico, anche se poi si è capito che l'attico non è suo, ma è condominiale. Si è capito anche, perché l'ha detto lo stesso Bertone, che ci sono ben 30 case ancora più grandi delle sue. D'altronde in Vaticano le case si fanno grandi così, sono spesso case antiche. Qualcuno ha detto questa battuta, che poi forse una battuta non è neanche. In alcune di queste case di cardinali si può girare addirittura in bicicletta, così, in bicicletta, tanto sono vaste, no? Fanno i circuiti, il record del giro dell'appartamento, non so a quale cardinale apparterrà. Dal Vaticano però c'è quest'altra notizia che mi ha un pochino più inquietato, la trovate su Repubblica, la trovate sul Giorno. L'accusa è molto grave nei confronti del vescovo di Cassino, Monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora Cassino dal 2013. Le accuse sono gravi, lui smentisce, ha detto «sono sconcertato e non ho ricevuto alcuna comunicazione di indagini a mio carico». Le accuse sono di molestie sui seminaristi. Ora però la procura archivia. Dopo l'indagine archivia l'inchiesta E allora uno potrebbe dire, beh, evidentemente niente di vero, e non lo sapremo, non lo sapremo mai. In realtà l'archiviazione, come racconta Antonio Di Costanzo a pagina 14 Repubblica, è un'archiviazione per difetto di querela. Manca cioè la denuncia della vittima e quindi il presunto reato non è perseguibile. Da qui la richiesta al GIP di far cadere le accuse contro il Monsignore da parte del procuratore capo di Cassino. Richiesta inoltrata al giudice per le indagini preliminari un mese fa, ben prima dell'esplosione mediatica del caso. Dunque, la decisione di archiviare la posizione dell'indagato non entra nel merito della vicenda, ma è solo una decisione per improcedibilità. Manca appunto la querela. E quindi, difetto di querela, il PM chiede l'archiviazione per il vescovo. Questo il vero motivo. Secondo voi si può fare, ecco, vi do una buona notizia. Una buona notizia perché spesso si dice, ah, in Italia non si riesce mai a fare niente di buono. Sentite cosa ha fatto, lo racconta il Corriere della Sera, a pagina 19, il presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi. Erano 223 comuni, sono diventati 178. Ecco come in Trentino ci è riuscito il taglio. Da 223 a 178 comuni a giugno potrebbero scendere a 154, sempre comunque tanti comuni di una provincia con mezzo milione di abitanti, ma a Trento possono andare orgogliosi per il processo di accorpamento e aggregazioni che non ha eguali in Italia. Merito di un metodo di lavoro che ha coinvolto i sindaci, convincendoli che unire le forze più che un danno è un'opportunità, spiega il presidente della provincia autonoma Rossi, ma è anche il risultato di una legge che ha posto un chiaro spartiacque ai propri cittadini. O sciogliete i vostri comuni dando vita a un nuovo soggetto con almeno 2.000 abitanti oppure dovrete passare alla gestione associata dei servizi. Di fronte a questo i sindaci hanno detto, beh, allora meglio unirsi, quindi più che unire le forze sono stati convinti dal fatto di perdere la gestione autonoma dei servizi e comunque il risultato, racconta il Corriere, in Trentino da 223 comuni si è passati a 178 e forse si continuerà. Insomma, si può fare, se volete si può. Ma eccoci qui all'articolo che mi fa pensare della giornata. È l'articolo da Mani sul volante, se siete alla guida, racconta Repubblica che cresce il business della moda col velo. Dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo essere aperti, dobbiamo guardare alle diversità, dobbiamo includere. La Francia si divide, secondo il ministro Laurence Rossignol, ministro della famiglia, ha detto questa frase forte, le donne che scelgono il velo sono come i negri americani favorevoli alla schiavitù. Ha usato questa parola proprio, negri. E per questo ci sono petizioni, si dimette, è una vergogna. Ma comunque la ministra per le donne, la filosofa Badin Terzi, schierano contro il fashion islamico. Le modelle, sempre di più, con abiti per musulmane, col velo, gli stilisti che già creano per il settore facendo affari d'oro. Evviva, evviva. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Ciao Alessandro Milan, un cognome da sette coppe dei campioni, altro che Serie B. Eh sì, sette coppe dei campioni, attacchiamoci a quelle, caro ascoltatore. Allora, la politica dopo le dimissioni del ministro Guidi, Renzi va in TV da Lucia Annunziata in mezz'ora per attaccare. Questa è la linea di Matteo Renzi, che si assume tutta la responsabilità su quell'emendamento in discussione, l'emendamento per il quale il ministro, ex ministro Guidi chiamava il compagno a dire, assicurandolo che quell'emendamento sarebbe passato, dicendo anche Maria Elena, cioè la Boschi, è d'accordo. L'emendamento è mio, dice Renzi, ho scelto di presentarlo, lo rivendico con forza. E poi dice ai magistrati di Potenza che indagano, sentite me. Sono pronto a parlare coi PM. Se i magistrati vogliono, possono parlare con me anche oggi pomeriggio su Tempa Rossa e sugli altri lavori che stiamo portando avanti. Poi dice: noi amici delle lobby è una cosa, è un'accusa che mi fa schiantare dalle risate. Così Renzi, che dunque attacca, tra l'altro racconta Maria Teresa Meli nel retroscena del Corriere della Sera, non solo attacca andando in TV, ma dice ai suoi collaboratori: è allucinante volere ascoltare da parte dei magistrati Maria Elena Boschi. Se vogliono ascoltino me, forse avrebbero bisogno di una lezione su come funziona il Parlamento. E poi dice: la verità è che c'è un disegno organico dietro tutto ciò. L'obiettivo è far raggiungere il quorum al referendum sulle trivelle, nella speranza di darmi un colpo. Dice anche Renzi: oggi Bonifazi, che è il tesoriere del PD, nonché suo grande amico, chiederà risarcimento danni a Grillo, mentre l'onorevole Davide Ermini querelerà Massa Carrara Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, che ha avuto la faccia tosta di dire che prendiamo i soldi dai petrolieri. A lui il PD chiederà di rinunciare all'immunità e del resto loro sono sempre pronti a dire che bisogna rinunciarci. Insomma, un Renzi che attacca, un Renzi che va in TV e non arretra ad un passo, dice arrestate, interrogate me, lapsus clamoroso, interrogate me e non Maria Elena Boschi e risponderò a tutto. Boschi ha fatto il suo lavoro. Tra l'altro Annalisa Cuzzocrea racconta su Repubblica, pagina 6, l'emendamento della discordia, prima bocciato, poi approvato, sterilizzato, entrato alle 4 di notte in un tentativo dello sblocca Italia, poi uscito. Tutto ciò viene ricordato anche in un'intervista all'Unità di Federica Fantozzi a Ermete Realacci, che è presidente della Commissione Ambiente, là dove quell'emendamento è entrato. Ermete Realacci non nega che ci fu una grande discussione per questo emendamento. Dice: non ho cambiato idea, il confronto fu molto duro, in commissione furono votati migliaia di emendamenti, era un testo complesso con dentro cose positive e altre meno. Per dirne una, senza di esso non esisterebbe la struttura che agisce contro il dissesto geologico. Quell'emendamento su Tempa Rossa arrivò a sera tarda e fu discusso nella notte, suscitò critiche delle opposizioni, SEL, 5 Stelle, ma anche dentro il PD. Non c'erano sospetti di interessi loschi, dice Realacci. Questo no, io lo dichiarai inammissibile, non perché fossi favorevole o contrario a Tempa Rossa, ma perché era una norma troppo estesa. Attribuiva al governo, senza altri passaggi, nel caso di opere relative a estrazione, stoccaggio o trasporto di idrocarburi, poteri sostitutivi in deroga alle procedure esistenti. Comunque sta di fatto che l'accusa che Renzi respinge di essere della lobby del petrolio in maniera totale, dicendo querelo chi lo dice, beh, forse dovrebbe querelare anche Michele Emiliano nel suo stesso partito. Michele Emiliano, intervistato da Luca Terese su Libero, oggi dice, e questo è il titolo: Renzi è al servizio delle lobby del petrolio. Il caso Guidi non mi ha stupito, ragionava da imprenditrice anziché da ministro. E da quando sono presidente col premier non ho mai parlato. Sapete che Emiliano è contro Renzi, è uno che appoggia molto il referendum delle trivelle. Insomma, cosa è accaduto? Dice Emiliano in questa intervista, pagina 7, c'è stato un regalone del governo ai signori del petrolio. Boom! Così. Michele Emiliano dice su Libero. Comunque, tanti sviluppi dell'inchiesta li trovate ancora sui giornali. Mentre io devo dire così, adesso faccio dopo l'inno tronca, devo dire Boeri è il presidente dell'INPS, che ha proposto ancora ieri un contributo di solidarietà alle pensioni più alte per salvare le generazioni di giovani. Boeri, questa è la mia personale posizione. So che quando tocco le pensioni poi mi manderete tanti belli insulti, tante belle... Sentite qui però, ci sono in Italia 500.000 italiani, 500.000 italiani che sono in pensione da 36 anni. 36. Una vita lavorativa. Quasi 40 anni. Lunga vita queste persone. Lunga vita, come ha scritto Corinna Marzi su Twitter, prima l'ho intercettata, molto interessante. è la condanna alla miseria dei nati dopo gli anni 70. Questa è la condanna alla miseria delle generazioni future. E voi non lo capite, abbarbicate alla vostra pensione, lì attaccati, dicendo «Me la sono meritata, bravi!» State uccidendo i vostri nipoti, state uccidendo i vostri figli. È un po' forte questa, eh? Un po' dura. Comunque... Lo scontro sul contributo di solidarietà. Boeri, presidente dell'INPS, propone di finanziare la flessibilità in uscita con un prelievo sugli importi elevati anche tra chi è a riposo da oltre 36 anni. 36. Il governo ovviamente lo ferma. Non verrà fatto. State sereni con le vostre pensioni alte. Non verrà fatto perché nessun governo toccherà mai le pensioni, vale a dire voti, in questo momento, e quindi non lo farà neanche Renzi. Vi segnalo che in America, come racconta il Secolo XIX, almeno una quarantina di milionari hanno scritto al governatore New York Cuomo per dire: per favore facci pagare più tasse. Facci pagare più tasse, vogliamo pagare più tasse. Beh, certo, dite voi, sono i milionari quelli lì, vogliono l'aumento dell'1% del prelievo fiscale per aiutare così i bambini poveri, i senza tetto, le persone a basso reddito. In Italia non funziona così, se aumentano le tasse se le ciucciano senza darle a queste categorie, se ne tengono un po' di più. Comunque, alle 7:44 del mattino, uno si sveglia, è il lunedì, la domenica è andata così così, dice... Meno male che c'è l'Inter, meno male che c'è Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Ci si consola. Sono così. In silenzio stampa. Va bene. Mi sono autodelegato per la semplice lettura dei titoli che trovi oggi sul Sole 24 Ore. Ottimo. Tasse sulle imprese, in Europa riparte la gara delle aliquote. Cameron punta al 17% per ridurre la corporate tax. E l'anno prossimo in Italia l'IRES scenderà al 24%. Precompilata, quanto costa il CAF? L'assistenza può superare i 200 euro nei casi più complessi. Sì. E poi ti segnalo, domani il corso pratico di educazione finanziaria, dedicato a pensioni e assicurazioni. Inoltre, sul Sole 24 Ore di oggi, lavoro e carriere, con 6.000 posti disponibili nel turismo, e in allegato, l'esperto risponde. Tra le proposte dell'esperto risponde, cosa cambia in banca dopo il bail-in? E tutto ciò premesso, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico. Alessandro Milan, l'Alessandro Milan dell'informazione, mamma mia! Ragazzi, ma cosa... Vabbè, sei passato tu con la grappa, Peter, non so, magari l'alpino con la grolla è passato le nostre ascoltatori a trovarle a casa prima di mandare le vostre sigle, mi raccomando, su WhatsApp al 349-238-6666. Salutiamo Mauro Meazza oggi un pochino così, col tono un po' dimesso. Devo dire, ringrazio quelli che mi fanno i complimenti sulle pensioni, ma è una posizione scomoda, lo so che già in segreteria telefonica chiameranno, e voglio subito dire all'ascoltatore che dice mio padre ha 99 anni, cosa faccio, gli sparo? Ma no, caro Lorenzo, non ho detto niente di questo, ma la fotografia è chiara, ci sono 500.000 italiani da 36 anni in pensione, ma non solo, comunque ci sono pensioni e un sistema che chiaramente poi si riverbera sulle classi più giovani. Lo vogliamo vedere? Vogliamo fare finta di niente, girare gli occhi dall'altra parte, girare la faccia dall'altra parte come abbiamo fatto per 40 anni? Continuiamo a farlo. Poi però se i nostri giovani appena hanno un'opportunità se ne vanno fuori dalle balle, fuori dall'Italia, dove magari ci sono sistemi dove possono emergere, far fruttare, non lamentiamoci. Comunque continueremo a far finta di nulla, perché ripeto, non si possono toccare i voti, le pensioni, i voti, insomma, le pensioni, i voti poi sono la stessa cosa, e quindi sarà tutto così, tranquilli. La mia intemerata uscita è quella di Boeri, non servirà a nulla. Comunque La cronaca, ieri non è stata una giornata facile al confine con l'Austria, Italia-Austria, al Brennero. Perché? Perché sapete che c'è una stretta sui migranti e ieri i centri sociali hanno protestato contro la polizia austriaca, lancio di sassi, agenti feriti, fermi tra gli antagonisti. D'altronde l'Europa reagisce al flusso di migranti, oggi iniziano i rimpatri dei profughi verso la Turchia, questo è l'accordo che è stato siglato tra l'Unione Europea e la Turchia. Questo non porterà a una situazione più calma, anzi ci sono già i migrati intervistati, come questo giovane pakistano intervistato su Repubblica, pagina 10, dall'isola di Lesbo, dice: se mi rimandano in Turchia sono pronto a uccidermi. La situazione non è certo facile sul fronte migranti. Scontri al Brennero nella marcia antimuro, i profughi siano liberi, questo è il grido dei centri sociali, e gli scontri con la polizia. Vi segnalo invece, sempre per quel che riguarda la cronaca italiana, è la seconda puntata sul Messaggero dei conti del Comune di Roma. Andrea Bassi racconta oggi i conti e i numeri dell'AMA e dell'ATAC, cioè le due aziende che gestiscono i rifiuti e i trasporti pubblici. AMA e ATAC, ai romani il conto dell'inefficienza. Sui numeri della capitale pesano cosa? Le perdite delle imprese comunali che gestiscono i servizi essenziali, appunto la nettezza urbana e i trasporti. L'azienda dei rifiuti scarica sulle tariffe la crescita incontenibile dei propri costi. L'aumento della tariffa domestica dell'AMA dal 2003 al 2013, appunto, sui portafogli dei cittadini, è del 43%. Il debito accumulato negli anni, sempre dall'AMA, 1,2 miliardi di euro, mentre l'ATAC ha 1,23 miliardi di euro, accumulati in 8 anni, questo fino al dicembre 2013. Insomma, questi numeri tutti analizzati dal Messaggero. Per quel che riguarda la politica estera, vi segnalo, sull'onda di quello che è successo a Giulio Regeni, l'omicidio in Egitto, da ieri il Corriere della Sera, a mio modo di vedere, ha fatto un'operazione meritevole. Perché è meritevole di essere citata? Perché noi ci occupiamo di Giulio Regeni, ovviamente, essendo italiano. Ma sappiate che negli ultimi 8 mesi in Egitto ci sono state almeno 533 sparizioni forzate, le chiamano così. D'altronde, racconta il Corriere oggi, fa altre 2 pagine, nel 2016 la repressione si è accentuata, 3 egiziani scomparsi sono stati ritrovati recente in obitorio. È raddoppiato anche il numero dei minori coinvolti. I casi totali potrebbero arrivare a 1700. Molto spesso sono oppositori del regime, ma per essere considerato oppositore del regime vuol dire fare delle ricerche politiche anche sgradite al regime di Al-Sisi. Insomma, mai ricomparsi 396, 137 invece sono ricomparsi di questi 533. La maggior parte sono uomini, anzi la stragrande maggioranza, 529 uomini, 4 donne. Sono accusati di essere in genere vicini alla fratellanza musulmana oppure di essere dissidenti laici. Insomma, oggi Viviana Mazza sul Corriere della Sera ricorda questi 533 che ieri erano molti rappresentati in foto nella iniziativa, appunto, del Corriere della Sera. Vi segnalo anche un'intervista invece, un'intervista ad Antonio Ricci, il padre di Striscia Notizia, siccome parla talmente raramente lo fa con Aldo Cazzullo oggi sul Corriere della Sera, parla di Berlusconi, Renzi, D'Alema. Di Renzi dice questo Ricci: fa molto rumore l'aspirapolvere che ci ha venduto, ma tanta polvere la butta sotto il tappeto. Abbiamo capito che è il più sveglio, ma doveva fare di più. Per parlare come quando facevo il preside all'Istituto per Periti Agrari di Coronata, bravo agli orali, ma agli iscritti non si vede tutta sta ciccia. Sarà vegano. Così Antonio Ricci, non male, eh? Non si vede tutta sta ciccia di Renzi. Sarà vegano. Certo, governare è difficile. Vedo che D'Alema, che ha avuto tutte le possibilità e non mi pare se le sia giocate al massimo, ora fa vedere che fa il ganassa Renzi. lo fa impazzire. Ma il giovane, cioè Renzi, ha facilitato a rintuzzare gli attacchi con la sua stessa presenza. Se lui è lì è perché loro non ce l'hanno fatta a esserci, loro, cioè i D'Alema. E sulla Boschi si deve dimettere, dice Antonio Ricci, la Madonna non può mica dimettersi. Vabbè, questa intervista non male di Antonio Ricci, poi dice tante altre cose anche di Berlusconi sul Corriere della Sera. Siamo alla carta che costa. Ebbene sì, la carta costa è il premio per l'articolo più inutile scovato sui giornali qui a Insindacabile Giudizio di 24 Mattino, e oggi stravince Silvia Truzzi in prima pagina del Fatto Quotidiano. Racconta la nuova moda trash chic di andare scalzi d'inverno. Quando l'oscenità è ai nostri piedi, fa freddo, je m'en fout. Je m'en fout, e via coi sandali tutte ignude in inverno che è finito, peraltro. Ma chi se ne frega!